Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Quando sono d'amore, è il mio sud che sta partendo, come parte Don Chisciotte, ma contro i mulini a vento, nella civiltà lo sbando, è solo con la sua poesia, il mio sud ci sta provando, ma Davide contro Golia. Il mio sud ci sta provando, dice in questa canzone Eugenio Bennato. In realtà, nella più detestabile lettura comune, quando sente parlare di sud la gente arriccia il naso. Perché? Perché come dicono i signori che guardano il sud come una realtà staccata, lontana. Dov'è il sud? Boh, in Italia dove comincia il sud? Da Tor di Quinto fino a Lampedusa, non so quello sia il sud, ma il sud è una realtà molto più estesa. È un punto di vista che noi consideriamo sempre alieno rispetto al nostro. Ma avete mai provato come possa essere il mondo visto da sud o visto dal sud? Perché, dicevo, il luogo comune più detestabile si dice che il sud puzza. Puzza tutto, le città del sud puzza, la gente del sud puzza, il sud è come luogo del degrado generalizzato. Devo dire che in questi ultimissimi tempi le nostre cronache, quando ci parlano di sud, ci parlano sempre di roba puzzolente, di spazzatura nascosta nella terra dei fuochi, grandi fabbriche nel Tarantino oltre che puzzare creano anche dei problemi importanti di salute. Quindi questo tende ad acclarare, ad accreditare la tesi che il sud puzzi. Il paradosso è che il più grande uomo del sud, perlomeno nella visibilità pubblica, colui che trasformò l'essere Terroni in un motivo d'orgoglio scrivendo dei libri proprio il cui titolo era Terroni, ha scritto un libro in cui dice espressamente nel titolo Il Sud puzza. Il libro è Il Sud puzza, appunto, storia di vergogna ed orgoglio, edizioni PM, uscito proprio in questi giorni in libreria, e l'autore, lo sapete perché è stato ospite tante volte nella nostra trasmissione, Pino Aprile. Pino, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a te. Ecco, perché hai scelto questa volta nella tua ormai ricorrente lettura del mondo visto da sud, questa che è l'idea più basica, più bestialmente riprodotta, di portare la puzza del sud come l'elemento di visibilità? Perché, ti devo dire la verità, il titolo dell'ultimo minuto, perché il titolo iniziale era La vergogna e l'orgoglio, perché il libro nasce dall'analisi di questi due grandi sentimenti. La vergogna è un sentimento sociale, non esiste vergogna senza società, e quando scopri la vergogna, hai due alternative: o l'accetti e quindi ti nascondi, ti umili, ti rendi meno, o reagisci e lì scatta l'orgoglio. Però mi sono trovato ad analizzare, ma ti dico, sai quei flash che ti vengono proprio la notte prima, le risposte che avevo avuto in diversi luoghi, tipo la terra dei fuochi, ovvero uno dei più grandi crimini commessi da questo paese, perché la terra dei fuochi, quella a nord di Napoli fino a Monte Massico, la piana del Volturno, è la terra più fertile del continente, 4 raccolti all'anno. Noi l'abbiamo usata per sversarvi i veleni, i rifiuti tossici più fetenti, più pericolosi. Quindi è stata fertilizzata al contrario di veleni di mezzo mondo praticamente. Ma infatti, compreso quelli nucleari. È così per esempio in Lucania, per l'inquinamento dell'industria petrolifera, che nella concezione comune, in fondo non inquina il petrolio, tu lo tiri su e te lo porti via, non è vero. Nella scala delle cose più inquinanti, più pericolose al mondo, dell'agenzia americana che studia, nella scala da 1 a 9, l'industria petrolifera inquina 8. E quando io chiedevo, ma insomma questa roba va avanti da decenni, voi perché l'avete tollerata per tanto tempo? Avete dormito tanto e vi svegliate ora? La risposta? Era la puzza ci ha svegliato. E però riflettendoci mi sono accorto che non era vero, perché alla puzza, io sono cresciuto nell'ultima palazzina popolare del rione Tamburi di Taranto, il mio dirimpettaio era un grande uliveto. Un giorno scomparve l'uliveto e il mio dirimpettaio divenne l'acciaieria. E io ho convissuto anni con la puzza dell'acciaieria, non la sentivo. Per cui mi sono reso conto che non li ha svegliati la puzza, ma hanno sentito la puzza perché si sono svegliati. E allora ho dato quel titolo al libro, Il Sud Puzza. Allora tu nel tuo libro ribadisci quello che è un concetto di cui abbiamo più volte parlato, che in realtà il mondo, il vero senso di innovazione, il vero senso di rivolta, l'avversione a questa sorta di tiepida stanchezza, questo riflettere su se stesso che mostra l'Occidente, verrà proprio dal Sud. Ci sono vari segnali, ma tu parli di un sistema matematico abbastanza nuovo, della geometria delle reti, il ribelle positivo. Ecco, cos'è il ribelle positivo? Ecco, allora, il ribelle positivo... dico agli ascoltatori, perché siamo in diretta, 800240024, noi stiamo parlando con Pino Aprile, ritorniamo sul tema, secondo quello che è il vostro punto di vista, questa idea della puzza del Sud che sta arrivando anche da noi, che si comincia a sentire, ma non perché è sistematicamente legata a un posto, perché un po' la puzza la produciamo anche noi, è la nostra puzza. Quando uno sente la propria puzza deve cominciarsi a preoccupare, perché di solito uno si dà un'usatina, pensa di essere passabile per il mondo, no, quando senti la tua puzza vuol dire che cominci a essere quasi cadavere. Scusa Pino, avanti. Sì, anche perché questi sistemi, per completare quello che stai appunto dicendo, cioè pensi che la terra dei fuochi in Campania sia lo sversatoio nazionale, ma quando parte un metodo non si ferma lì. Per esempio uno dei pentiti citato nella bellissima inchiesta La Quinta Mafia, un libro interessante sulla mafia al nord, e c'è uno dei pentiti, un imprenditore lombardo, che dice: ma noi di queste discariche qui, che sappia io, ne abbiamo fatto almeno 100 in Lombardia. Cioè, una volta che fai passare un sistema illegale, puzzolente, puzza ovunque. Ma è vero che il sistema più perfezionato per rilevare via satellite o comunque dall'alto le discariche abusive è fatto in Lucania, lo affittano a tutto il mondo, ma gli italiani non sono interessati a dare un'occhiata al paese e vedere cosa c'è sottoterra? Nella terra dei fuochi hanno fatto delle, come dire, sorvegliano il territorio per vedere dove nascono nuove discariche abusive, per denunciare, segnalare, eccetera. E poi vado in Lucania e stavo intervistando Isaia Giannetti, che è un giovane professore americano ma figlio di italiani, che si è trasferito in Lucania ed ora si sta candidando alle elezioni regionali. E mi parlava, diceva: ma sai, il curioso è che qui in provincia di Potenza, presso Potenza, c'è la più grande base che ha un sistema satellitare per rilevare, scoprire e monitorare, ma proprio minuto per minuto, le discariche, abusive o no che siano. Il servizio viene offerto in abbonamento, molti paesi europei sono abbonati, la tecnologia satellitare è italiana, il paese che non è abbonato è l'Italia. E l'Italia non gliene importa niente. Fermo un attimo, Elisabetta. Buongiorno. Sì. Sono felice che si parli di questo. L'altra sera hanno fatto un programma sulle Iene che siamo rimasti senza parole a vedere cosa succede in campagna. Purtroppo se ne parla troppo poco. Certo, ci passa completamente l'appetito a sentire questo, non sappiamo più noi, mamme di famiglia, che cosa può fare. Non è che prima delle Iene non avesse detto nessuno. Diciamo, le Iene sono brave a confezionare servizi molto a effetto, che infatti sì, la signora Elisabetta rimane disgustata. Da tante parti si sente questo. Lei dice sombrai a confezionare, sì d'accordo, però c'era la realtà, lì si vedeva, si toccava con mano quello che è la campagna che è diventata, che una volta aveva i pomodori più buoni del mondo. Adesso come si fa a comparare le mozzarelle della campagna, i pomodori della campagna? Adesso lo scrittore mi sta dicendo che anche in Lombardia c'è la stessa cosa, ma che dobbiamo fare? Parla solo del processo di Berlusconi a Napoli, ma mai un giudice che abbia preso veramente, mi scusi, a cuore la situazione che c'è là. È vero questo, Pino Aprile, quello dice la signora, che è relativamente vero. Perché? Perché per esempio le prime denunce sono molto antiche, cioè il pentito di Camorra Schiavone, cioè un boss dei casalesi, si pentì vedendo morire la sua gente di cancro. E bada che uno che si accolla, lui ha imputazioni per una cinquantina di omicidi, lui dice io ne ho fatti di ne ho sulla coscienza più o meno 10 volte tanto. Ne sapete solo 50, figuriamoci. Aspetta, te lo faccio sentire, così lo commenti. Sì. Tutti quelli che si sono sporcati con l'immondizia, sono morti tutti, li suicidano. Milioni e milioni di metri cubi da riempire. Tu mescoli rifiuti chimici, raggi ospedaliere, rifiuti ospedaliere, rifiuti industrie farmaceutiche, rifiuti pitture, rifiuti di tante altre industrie. Che usciva dei liquami puzzolenti, che non cresceva più l'erba, gli alberi che morivano. A me quello che mi ha fatto pentire principalmente è stato questo. Perché ho detto, da qui a 10 anni questi non hanno scampo. Né i miei figli, né i figli degli altri, gente che insomma, prima di nascere qui li stanno ammazzando la gente per soldi. Ma quanti soldi vale il mercato dei rifiuti? Miliardi. Ecco Pino, non si può dire che non si sapesse. Schiavone, pluriomicida, persona con 7.000 pesi sulla coscienza, a un certo punto dice ho visto una cosa talmente schifosa che qui era una sorta di bomba orologeria, avrebbe fatto morire tutti e quindi ho deciso di pentirmi. Ma lui queste cose le dice nel 1993, ecco, non è che l'ha detto ieri. Parlamentare contro le ecomafie. Che ancora Saviano diciamo, andava al liceo, ecco. Forse alla scuola media. Di fronte alla necessità della bonifica, la risposta è ci vogliono troppi soldi. Chi ce li dà 26.000 miliardi per cominciare? E quindi cosa si fa? L'audizione viene segretata e per altri 20 anni si continuano a sversare veleni, eccetera, eccetera. Ci sono le denunce dei cittadini, ce n'è una firmata da 35.000 cittadini, il primo firmatario è il Vescovo e su cui stanno lavorando ben 3 procure nel napoletano, però arrivi sempre dopo le stragi, cioè la gente muore, bisogna andare lì per capire proprio la metafora dell'Italia, per capire come ci siamo ridotti da soli. Ci fermiamo solo un istante, Pino, ad dare il traffico, poi mi dici in apertura il ribelle positivo. Te l'avevo chiesto, ma non ti ho dato modo di rispondere. Tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Velocemente qualche ascoltatore, poi sentiamo Pino Aprile, giornalista, saggista, autore del libro Il Sud Puzza, storia di vergogna ed orgoglio, edizioni PM, con cui continua questa sua storia raccontata attraverso libri. Il primo libro, Terroni, ha venduto qualcosa come 300.000 copie, quindi sono libri che comunque stanno creando un consenso. Poi ci dirà Pino attraverso quale meccanismo è matematicamente prevedibile che dal Sud verrà qualcosa di concreto, di cui ci accorgeremo tutti. Il fatto che noi stiamo cominciando a sentire la puzza vuol dire che qualcosa si avvicina. Gabriele, buongiorno. Buongiorno, no, a parte contesto il noi e il sud, noi non so chi sono i noi. Beh, io non vivo al sud. Sì, io sto a Napoli. Sì, Napoli. Io no, però credo dirle. Sono al sud rispetto a Bergamo, ma quello che generalmente riteniamo meridione d'Italia, che è poi una dimensione. Questo sono noi, non sono. Sì, vabbè, adesso non facciamo il sud. Che vuol dire, Gabriele? Se no ci fermiamo. No, poi volevo dire, tutti i rifiuti che stanno in Campania, da dove provengono? Chi sono i produttori? E poi i produttori, nel momento in cui dà un rifiuto tossico a un'azienda che sa da dove proviene, dove butta i rifiuti, diciamo di questi due, chi è l'illegale, chi è il camorrista? Entrambi. Cosimo, grazie Gabriele. Cosimo. Sì, Cosimo. Buongiorno Nicoletti. Ci dia una notizia. Ecco, allora, niente, io volevo dire che sono di origini meridionali, ma vivo da 15 anni quasi, Alta Valtidone, praticamente in provincia di Piacenza, famosa la zona dove vivo io per la festa della zucca di Bossi, adesso la festa della zucca verrà Salvini, viva la Lega, e che comunque abbiamo lì un tidoncello merlingo, aria protetta, 150 metri, non si può costruire niente, c'è proprio una discarica a cielo aperto, tutti lo sanno, nessuno dice niente. Io ho denunciato addirittura il comune alla procura della Repubblica di Piacenza, parliamo di 12 anni fa, 10 anni fa. E nulla è mutato. Niente è successo, anzi sono stati premiati perché hanno potuto ampliare una piattaforma ecologica fatta adesso prima dal comune, oggi dall'IREN, che si occupa praticamente della gestione dei rifiuti, sul greto, cioè un mio cliente geologo ha detto che lì non devi tener conto della distanza dal greto del torrente, viene dichiarato greto, del torrente. Quindi appena quel torrente trancimerà, cosa che è successa, lo sentiamo ogni settimana. Si porta i liquami del pattume in giro per tutta la Valpadana. Esatto, porterà i rifiuti nel Tidoncello, che finiranno nel Tidone, che finiranno nel Po, che finirà nel mare. Addirittura sono stati violati i diritti internazionali. La prossima ampolla del Dio Po sarà leggermente opaca, evidentemente. Pino aprile, mi dici finalmente cosa sta accadendo? Perché noi stiamo facendo l'elenco di tutte le possibili nefandezze, in parte le conosciamo, in parte le ribadiamo che è giusto. Ma mi interessa capire, ti ho già chiesto, questa sorta di idea che si sta creando un qualcosa di concreto nel Sud, di cui ci accorgeremo presto anche noi che non siamo del Sud, o perlomeno non lo siamo secondo le geografie correnti e locali. Il ribelle positivo è colui che nella società non accetta che le cose, come dire, vadano male perché così vanno, e decide di fare qualcosa. La psicologia sociale lavora su questo da almeno 50-60 anni, dagli esperimenti di Milgram, e oggi un ricercatore italiano, assistente di Philip Zimbardo, uno dei padri della psicologia sociale, questo, si chiama Piero Bocchiaro, questo, ha trovato il modo di stanare il ribelle positivo e capire come, tra virgolette, si può produrre. Io l'ho ribattezzato la formula della rivoluzione. Ora, è una formula matematica, non è che è un'ipotesi. Sì, cioè, ci sono proprio, puoi costruire le condizioni, le circostanze in modo da produrre ribelli positivi, ma questo sta già avvenendo, avviene naturalmente nella società, e c'è un modo per misurarlo, è la geometria delle reti applicata ai movimenti sociali, e a questa maniera tu puoi misurare i nodi e i legami fra i nodi. I nodi li chiamiamoli associazioni, movimenti, leaders, eccetera, e i loro legami, cioè i collegamenti che hanno con altre associazioni, altri enti, eccetera. Quello che sta succedendo al Sud ora è una incredibile proliferazione di associazioni, movimenti, gruppi di cittadini che si uniscono per risolvere problemi, e siccome i problemi sono davvero tanti, questo numero sta velocemente, esponenzialmente crescendo. Mi viene in mente, scusami, una metafora molto campagnola, ma è come tante piccole gocce d'olio in una superficie d'acqua che alla fine si riuniscono tutte necessariamente per una legge fisica. Azzeccatissimo, perché quando questo avviene, cioè tutte le gocce, t'accorgi che c'è un goccione d'olio, ecco. Sì, ma proprio è quello il momento in cui la geometria delle reti dice che emerge una componente gigante. Nella fisica questo si chiama percolazione, e segna un cambio di stato, cioè per esempio l'acqua dallo stato liquido a ghiaccio. Senti, mi fai anche un punto più vasto. Tu di Sud, quando parli di Sud, dici ma il Sud inizia dagli sviluppatori di software dell'India, molto lontano. Due episodi ti metto. Ieri ho letto la notizia al Corriere della Sera che la califfa del Qatar è la più grande collezionista d'arte del mondo. Hai Picasso, i quadri più famosi, più importanti del mondo li sta razzolando tutti lei. E due ore fa, proprio a questi microfoni di Giovanni Minoli, Tarak Ben Ammar dice: ma se la RAI inventa me la compro io, anche la 7, così facciamo una grande televisione mediterranea. Sono segnali anche questi? Sì, oddio, ce ne sono, come dire, di meno personalizzati, perché la signora del Qatar, ricca oltremodo, la immaginiamo, cioè il petrolio, eccetera, ma c'è si può investire in opere d'arte. Il mondo che fa questo è il Sud, che era terzo mondo, che con l'avvento dell'informatica, cioè della possibilità per la prima volta di competere alla pari con il nord del mondo, ha preso uno slancio, per cui sta raggiungendo, parlo di Cina, parlo di India, Brasile, Corea del Sud, eccetera, eccetera. Il nord del mondo lo sta superando. La Cina è ormai al doppio degli Stati Uniti come produzione industriale. Tant'è che l'ultimo rapporto dell'ONU dice testualmente: il sud del mondo sta salvando il pianeta. Ma secondo te avere paradosso, una televisione pubblica gestita da un imprenditore tunisino cambierà qualcosa nel mondo, dal punto di vista del mondo visto da sud? Bah, forse sentiremo di più Aisha cantata. E tu ne saresti contento? A me piace, sì, perché è musica mediterranea, cioè il Mediterraneo è, contrariamente a quello che si crede, non è un mare, è il più piccolo oceano del mondo. Grazie Pino Aprile, su questo lasciate che la sigla ci segua. Il Sud puzza, storia di vergogna ed orgoglio.